Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Barack Obama, in una telefonata con il premier turco Erdogan, ha espresso il sostegno di USA e NATO al diritto della Turchia di difendere la propria sovranità, dicendosi d'accordo sulla necessità di evitare un'escalation con Mosca per assicurare che l'incidente non si ripeta. La NATO, di cui Ankara è membro effettivo e strategico, conferma la versione dell'alleato ma invita entrambi i paesi a riprendere il dialogo, sullo sfondo anche la necessità di non minare gli sforzi internazionali in atto per la formazione di una coalizione anti-ISIS. Tranquilli, non vi darò nessun aggiornamento, anche perché è stato fatto ampiamente dal giornale radio che mi ha preceduto sull'esito della crisi che si ripresenta ormai palese, anche se ancora facciamo finta che così non sia, fra i due blocchi che hanno costellato la storia della mia generazione. Con la caduta del muro di Berlino sembrava che mai più sentissimo parlare di Russia contro America, di due contrapposizioni nette, manichee, tra le quali non era possibile scegliere nessuna mediazione. Noi siamo nati e cresciuti, noi ragazzi degli anni 50, con l'idea che la guerra fredda avrebbe fatto parte per sempre della nostra esistenza. Beh, così è a tutti gli effetti. Quindi questa mattina, volendo restare sulla notizia e volendo anche venire incontro ai nostri ascoltatori che ormai hanno trasformato, ma non i nostri ascoltatori, gli italiani in generale, hanno trasformato l'argomento principe delle chiacchiere del disimpegno davanti al cappuccino o davanti al televisore acceso, o la mattina del lunedì o il giorno del dopo partita nei bar dove amano tanto ritrovarsi, invece che parlare di arbitri si parla di ISIS, si parla di contrapposizione fra Oriente e Occidente, si parla di islamici moderati o islamici integralisti, si parlerà oggi probabilmente di Russia contro America. Sì, perché giriamola come non la giriamo, alla fine si ritorna a questa grande visione binaria della realtà. Beh, io questa mattina, andando incontro anche a un desiderio editoriale, mi viene spesso riproposto: se è troppo difficile, troppo complicato, parli troppo di cultura, bisogna fare cose pop. Farò la più pop delle trasmissioni di questa stagione. Voglio sapere dagli italiani: voi in questo momento con chi state o con chi stareste o chi sareste disposti a schierarvi? Fate conto, se hanno due grandi partite, due grandi squadre di calcio, voi per forza dovete mettere i colori di una, anche perché alla fine questo sarà: state con Vladimir Putin o state con il presidente Obama? Perché esattamente questo, alla luce di quello che avete capito, che avete leggiucchiato, che avete orecchiato nelle metropolitane, nei treni, negli autobus, nel retrobottega del calzolaio mentre vi rimetteva i tacchi alle scarpe, e che avete visto nei telegiornali, nelle mediate, poi avete visto Ballarò, avete visto tutti i programmi intelligenti fino alla tarda serata della televisione di Rai 1, dovete dirmi esattamente con chi state. Ma senza nemmeno che me lo motiviate tanto, non è che mi interessa tanto, anche perché l'adesione di popolo è un'adesione di pancia, è un'adesione emotiva, non è una visione argomentata, una visione che si appoggia su razionali elementi di giudizio. Voi, se questa mattina doveste scegliere, se questa mattina vi bussasse qualcuno alla porta e vi dicesse: con chi stai, con Obama o con Putin, con chi stareste? 800 24 0024. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Non ha un valore scientifico in termini statistici, però forse è un segnale. Nel frattempo che andava la pubblicità, ho già ricevuto 5 sms, sono arrivati tutti insieme. Putin, cazzo, Putin per tutta la vita, sto con Putin, tra tanti mali quello minore. Questo fa qualcosa di concreto. Sto con Putin, l'unico che abbia le idee chiare. Centrodestra, sto con Putin. Putin è esattamente il contrario di quello che poteva avvenire rispetto agli anni 70, ai primi anni 70, in cui la polarità di riferimento era ben diversa nei confronti dei blocchi. Ripeto la domanda, questa mattina è una trasmissione pop, una trasmissione che non chiede altro che un giudizio di pancia, però voglio capire che gli italiani, che al momento non hanno avuto nessuna indicazione dai loro uomini di riferimento politici, se non il messaggio accurato che è arrivato poco fa di Bruno Vespa, che non presenterà il libro di Berlusconi, perché dato l'importanza e la delicatezza del conflitto che c'è fra Turchia e Russia, Berlusconi non andrà a presentare il libro di Vespa, o Vespa non presenterà il libro di Berlusconi, che poi è la stessa cosa. Beh, questa mattina invece vorrei immediatamente darvi il minimo possibile di elementi di giudizio. Per farlo ho chiamato due colleghi che già si erano confrontati qualche giorno fa nella trasmissione di Giovanni Minoli, ma oggi chiederò loro di fare un piccolo sforzo, so che probabilmente potrà anche loro costare. Vorrei che mi facessero entrambi, ognuno per diciamo l'uomo di riferimento a seconda della loro Weltanschauung professionale, quello che hanno scritto, detto e pensato, di modo che abbiano il nostro ascoltatore a disposizione diciamo due schede elettorali per capire bene e definire le loro intenzioni di voto. L'uno è Gennaro San Giuliano. San Giuliano, buongiorno. Non mi sento in questo momento. Beh, intanto dico chi è: un giornalista, uno scrittore italiano, vice direttore del TG1, ha scritto Putin, vita di uno zar, edizioni Mondadori, che è, diciamo, quello che dovrebbe in qualche maniera, non dico convincervi, ma darvi alcuni elementi per capire che forse è meglio stare dalla parte di Putin. L'altro è, e me ne vorrà molto perché l'ho coinvolto in questa cosa, Pierluigi Battista, buongiorno. Buongiorno, no, editorialista del Corriere della Sera. Poi tu devi in questo momento cominciare tu. Io voglio capire questa mattina. Anche perché San Giuliano c'è un jet turco che un missile turco che lo ha intercettato. No, stava in treno, no, penso molto più facilmente è un ritardo del Freccia Rossa che andava verso Salerno, qualcosa del Freccia Argento. No, però questa mattina voglio capire un attimo, per la fetta di italiani che ho a disposizione, di cui posso cogliere a caldo il giudizio, è indicativo perché è un pubblico reattivo e significativo. Se dovessi in questo momento fare una scelta manichea, come poteva essere un tempo stai con Don Camillo o stai con Peppone, oggi stai con Putin o stai con Obama, se tu dovessi dare degli elementi per dire no, state con Obama, quali elementi daresti per aiutare il loro giudizio? Beh, dovrei arrampicarmi sugli specchi, come infatti faccio regolarmente, nel senso che io sto con Obama perché sto con gli Stati Uniti d'America, che ritengo appunto comunque un paese democratico, all'avanguardia dei paesi democratici, della società e della civiltà occidentale, quindi diciamo così è uno schieramento pro Stati Uniti a prescindere. Poi naturalmente esiste il giudizio politico su quello che materialmente un presidente degli Stati Uniti fa, e quindi diciamo purtroppo noi filoamericani ci troviamo nella sgradevole condizione che nella totale assenza dell'Europa, ma l'Europa non esiste, è una nullità assoluta, non è che stiamo parlando di uno spettro, di un fantasma, ma soprattutto di una catastrofica assenza politico-militare degli Stati Uniti. Oggi la leadership dentro, sia pur molto contrastata, come si è visto appunto nel caso del conflitto con la Turchia, purtroppo la leadership politica, militare, strategica viene presa da Putin, cioè da uno zar, dall'ultimo zar, da un ex del KGB. A me non piace né lo zar né il KGB, e quindi diciamo così purtroppo ci troviamo in questa condizione così come nella seconda guerra mondiale uno si allea col diavolo per combattere il diavolo ancora peggiore, no? Quindi per il male minore bisognerà accettare questo. Accettare, anche se torto collo, anche con molte riserve, non possiamo farne a meno, anche perché se no dove andiamo? Questo è quello che dice Pierluigi Battista. Gennaro San Giuliano, buongiorno, l'abbiamo recuperato? Sì, eccomi qua, buongiorno a voi. Hai un compito, non so quanto per te gradevole, ma hai scritto un bel librone su Putin, vita di uno zar, quindi dovresti in questa mattina, se possibile, dare degli elementi agli italiani, perché dovranno giudicare oggi se stare con Putin o stare con Obama, per stare invece con Putin. Se tu dovessi fare una sorta di, non dico proclama elettorale, ma dare una scheda di riferimento, dire guardate, questi sono gli elementi per cui vi conviene stare con Putin, quali sarebbero i tuoi argomenti? Ma diciamo che Putin è stato in questi anni protagonista di quello che i politologi russi definiscono il risveglio nazionale, cioè ha ridato ai russi l'orgoglio e un'identità nazionale basata su tre elementi: una riscoperta dell'imperialismo zarista, dell'antica Russia degli zar; secondo elemento, l'orgoglio dell'Unione Sovietica, lui ha restituito la bandiera con la falce e il martello e l'inno all'armata rossa; terzo elemento, la Chiesa ortodossa. Quindi tutto sommato la nostra identità, dal tuo punto di vista, sarebbe più salvaguardata stando dalla parte di Putin, visto che oggi c'è questo discorso dell'identità dell'Europa, dell'Occidente. Putin tutto sommato ci converrebbe di più, secondo te? Ma lui si dichiara difensore di quei valori che sono i valori propri dell'Occidente. Se prendiamo un testo molto noto, Il tramonto dell'Occidente, di Oswald Spengler, uno scrittore molto raffinato tedesco, e vediamo come alcuni di quei valori propri dell'Occidente oggi siano forse meglio garantiti da Putin dall'attuale dirigenza degli Stati Uniti d'America. In verità io devo dire che se dovessi stare con qualcuno sarei con Marco Rubio, candidato alla Casa Bianca, senatore della Florida. Però adesso, Spengler faccia una distinzione fra cultura e civilizzazione, ma Putin sta alla parte della cultura o della civilizzazione? È dalla parte della cultura, non è dalla parte della civilizzazione, perché la civilizzazione è il grande errore diciamo dei sistemi anglosassoni, cioè quello di poter pensare di poter esportare un modello e rendere questo modello globale, di non tener conto delle transizioni storiche, dei sedimenti storici che ci sono nei territori e nei popoli. Del resto anche lo stesso nostro storce del naso, per esempio rispetto all'operazione Cecenia, non dimentichiamo che la Cecenia fu il primo tentativo di instaurare un califfato, quando i ceceni, rompendo gli accordi stabiliti con Yeltsin, che pure gli aveva riconosciuto grande autonomia ed indipendenza, incominciarono ad invadere il Dagestan. E Putin li stroncò in pieno, magari li stroncò in maniera dura, certamente criticabile, anzi molto criticabile, però li stroncò. E probabilmente adesso avremmo avuto un califfato nel Caucaso se non avessimo avuto... È chiaro, però si definisce un quadro abbastanza singolare, anche se era abbastanza scontato. Luigi Battista, vedi che oggi stare con Putin in fondo significa... per gli italiani medi, fa riferimento a delle radici storico-tradizionali. Vorrei discuterla tu. Allora, nei valori occidentali esistono alcune quisquilie che si chiamano la libertà di espressione, la libertà d'opinione, la libertà di critica, la libertà dei comportamenti, la libertà. Questo è uno dei valori essenziali dell'Occidente, cosa che naturalmente nella Russia post-sovietica di Putin invece sono totalmente calpestati. Nei richiami storici che appunto San Giuliano diceva, appunto c'è anche l'elemento Stalin, cioè stanno recuperando Stalin. Ora, l'idea di definire Stalin come difensore dei valori occidentali, mi rendo conto, diciamo così, che dobbiamo rivedere tutte le categorie, cioè fare un grande minestrone, e facciamo pure questo minestrone. Però per Luigi, tu ti stai rivolgendo... Stalin è difensore dei valori occidentali. Benissimo, Stalin, quello che ha ammazzato 20 milioni di persone nel Gulag, è un difensore dei valori occidentali. Perché? Perché se è la grande guerra patriottica, perché una delle grandi mistificazioni ideologiche appunto di Stalin durante la Seconda Guerra Mondiale era di ribattezzare grande guerra patriottica la difesa contro l'aggressione. Mi permetti, quello di dirti, ci stavo rivolgendo agli italiani, io ti citerei una coltissima citazione, Alberto Sordi, quando il borghese piccolo è iniziato alla massoneria, gli viene domandato che ne pensi la libertà, dice una bella cosa, peccato che ce n'è troppa. Noi ci rivolgiamo a questi, capisci? Sentiamo gli ascoltatori. Sergio, buongiorno. Salve, buongiorno. Il suo punto di vista, con chi sta? Guardi, senza ombra di dubbio è anacronistico, perché sono un uomo che ho sempre visto, sono sempre stato a destra, ma decisamente dalla parte di Putin. Ma la destra oggi sta dalla parte di Putin, mi sembra molto chiaro questo. Senz'altro la destra sta dalla parte di Putin, però purtroppo qui a destra non c'è più nessuno. Ma lei quanto è a destra? Diciamo destra o destra? Io sono sempre stato a destra, però non c'è nessuna persona. Cioè sempre della stessa idea quando sono c'era lui? Sempre della stessa idea, no, lui è anacronistico, lui lasciamolo perdere. No, per capire, oggi destra è tutto destra, destra è anche Alfano, ma fa ridere. Certo. Lei è destra quelli veri. Sono un uomo di destra, ma darò il voto a Renzi e farò farò votare Renzi. Beh, Renzi è un uomo di destra. Ma non so se è un uomo di destra, però è senz'altro un uomo di buon senso, un uomo che sta dando un passo diverso. Comunque, lei ha dato un quadro molto interessante. Il tipo, diciamo, di Weltanschauung che lei esprime è naturalmente dalla parte di Putin. Stiamo Roberto invece. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Io invece sono dalla parte di Obama. Perché? Perché penso che in realtà la valutazione da fare è che Obama è un presidente di un paese dove esiste una democrazia e Putin invece è un che aspira a diventare lo zar di tutte le Russie. E questo non mi tranquillizza. Oltretutto con il passato di Putin ha avuto nelle ultime situazioni in Ucraina e gli atteggiamenti di Putin sono per me pericolosi. Lei però allora a questo punto è di sinistra? No, io sono di destra. Di destra, benissimo. Però penso che le scelte bisogna farle in maniera ragionata e bisogna ragionare con la testa e non con la pancia. Va bene, mi sembra chiaro. Fermiamo questa prima tornata, dobbiamo dare una pausa. Non so se i nostri due supporter ci potranno seguire, spero di sì, perché si fa interessante, anche soprattutto si fa interessante la difficoltà che hanno gli italiani di esprimersi in maniera chiara e precisa oggi rispetto a questa visione dell'attualità, tenendo conto poi di quello che è il loro retaggio politico, storico, individuale, familiare e via dicendo. Tra un istante. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024 siamo impegnati in questa perigliosa e ardimentosa scoperta da che parte staranno gli italiani quando la politica italiana deciderà di prendere una posizione ufficiale, sapranno almeno da che parte avranno il consenso. Questa mattina avevamo schierato due persone che in qualche maniera erano a darci l'idea di qualche indicazione di consenso: sto con Obama o sto con Putin. L'uno, per Luigi Battista, ha abbandonato il campo, ma questo non significa che Obama si ritira, semplicemente deve andare alla riunione di redazione. Poi abbiamo Gennaro San Giuliano, lo stiamo richiamando, comunque avremo fra un po' Gennaro San Giuliano, che ricordo è giornalista, scrittore italiano, vice direttore del TG1, che ha scritto da poco un libro per Mondadori, Putin, vita di uno zar, a cui spetta, visto che siamo come tribuna politica, una replica, perché Battista aveva parlato due volte. Intanto sentiamo il pubblico come ci sta dando la sua opinione. Cristina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, stamattina ho sentito soltanto l'introduzione dell'argomento che lei ha fatto. L'introduzione è la parte fondamentale, sa tutto. Sì, esatto. Poi dopo ho dovuto fare dei giri, per cui non ho sentito altro. Dunque, ascolti, io sono del 53, penso sua coetanea. No, è più vecchia, molto più vecchia di me. Oh, mi dispiace allora. Di un anno, però, è tanto. Beh, insomma, più o meno. Dunque, anch'io, come diceva lei, mi sono sempre sentita in aria di guerra fredda. Però... da poco tempo a sta parte ho cambiato totalmente fronte, nonostante sia completamente anticomunista. Io sto per Putin, perché da Putin mi sento più difesa. Lei si sente più salvaguardata la figura di quello maccione che a dorso nudo si rotola nella neve, che combatte con fiere feroci, che fa tutti gli sport del mondo, fa il karate, bello, sembra poi Yul Brynner quando faceva appunto uno dei suoi più forti e fulgidi eroi. Cristina sta con Putin. Mario, buongiorno. Buongiorno. Senta, lo schierarsi con l'uno o con l'altro è molto semplicistico. Terzo non dato. E con chi altro si può rischierare, scusi? Sì, con Putin, perché il contesto di cui sta parlando in questo momento riferisce alla situazione siriana. Nella situazione siriana l'unico che ha una legittimità ad intervenire è Putin e la Russia, perché è stato chiamato dal legittimo governo della Siria, mentre l'intervento della coalizione, chi è stato chiamato? L'ONU? No. Il governo siriano? No. Quindi gli unici due organismi che potevano intervenire. Ora, il perché, quindi la legittimazione sta in capo a Putin. Perché? perché l'abbattimento dell'aereo russo da parte dei turchi? Perché probabilmente l'organizzazione futura dello Stato siriano comprenderà di sicuro la realizzazione di uno Stato curdo. Certamente confligge con gli interessi. Sì, La sua analisi è lucida e esatta, sono convinto, anche, sono d'accordo con lei. Andremo a realizzare tre stati, uno curdo, uno la sciita e l'altro sunnita, perché tutto deriva da questa suddivisione. Chiaramente l'unico governo, l'unico Stato che trova non certamente aderente alle sue desiderata. I curdi è il grande rimosso, la Turchia. Perfetto, perché parte dello Stato curdo, parte della popolazione curda ne hanno massacrati a Bizerfi. Quindi andremo a ricreare delle condizioni sul piano politico, geopolitico, che la Turchia non accetterà mai. Perché altrimenti perché doveva abbattere l'aereo? Anche se ha invaso il territorio turco, perché? E quale motivo? Oltretutto sta bombardando chi? Ecco, facciamo un'analisi, chi sta bombardando? Sì, ma adesso l'analisi è corretta e giusta, però in questo momento è ridondante, perché mi serve, diciamo, una presa di posizione più sul trascinamento emotivo, e poi l'emotività è basata anche su elementi da cui bisogna tenere considerazione senz'altro. Quindi lei è per Putin per una serie di ragioni legate alla situazione siriana, ma in senso più lato comunque mi sembra aver capito che si pensa più dalla parte di Putin. Sentiamo Lisa, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie per l'intervento. Io volevo dire una cosa molto... Non lo sa perché Lisa, perché nessuno sta chiedendo agli italiani, è tanta in questo momento la prudenza della politica generale italiana, cioè della politica governativa, che in questo momento sono gli italiani che dicono da che parte stanno. Lei da che parte sta? Io sto dalla parte di Putin ed è la prima volta in vita mia, perché io sono di sinistra e questo trovarmi con Putin un po' mi disorienta a me stessa, ma comunque... Però è russo, se lei è di sinistra avrà avuto un momento della sua vita in cui si è sdilinquita per la Russia come il faro della civiltà, e allora non era di sinistra. No, mai. Negli anni 70 da che parte stava? Ero negli anni 70, io ero nel 68 e non ero comunque dalla parte dell'Unione Sovietica. E da che parte? Della Cina stava? Ma adesso... Era figlia di Fiori, non stava con nessuno e si faceva le canne. Cosa faceva lei? No, voglio capire le radici. Ero nel movimento studentesco nel 68. Vuole dire se provava nel movimento studentesco a dire a un compagno della FIGC che non stava con lui, era cacciata fuori. No, adesso siamo in altri tempi. Non rimuova però il passato. Mi sono accorta che c'è tantissima ideologia, tantissime... C'è sempre stata tanta ideologia. Tantissimi pretesti, mentre la situazione pratica, quella veramente pratica, è una sola, è quella di distruggerli, di annientarli, e questo solo... Ma chi annientare chi? I musulmani cattivi? No, sì, certo, Daesh. Tutti fighi adesso, avete chiamato ISIS fino a ieri, l'altro ieri non sapete manco che era, adesso Daesh, vabbè, contro Daesh, viva Putin, molto chiaro. Gennaro San Giuliano, abbiamo recuperato San Giuliano, ha il gioco molto facile San Giuliano, perché pende l'opinione generale statisticamente dalla parte di Putin decisamente. Battista ha abbandonato il campo, ma semplicemente doveva andare a fare la riunione di redazione. Vediamo, hai diritto però a una replica, visto che lui ha parlato due volte. Se possibile, ma... No, guarda, io penso questo. Stai vincendo facile, diciamo, ecco. No, perché... non sto vincendo, credo che la gente ci avanzi, a noi intellettuali o presunti tali, in alcune percezioni che poi noi non riusciamo a registrare con attenzione. Ma io per questo, sai, ascolto molto il pubblico, per questo, perché è vergine del nostro pregiudizio intellettualistico. No, e mi spiego, lo dico immediatamente, vi voglio spiegare subito. Allora, innanzitutto anche io sottoscrivo i valori della libertà occidentali, la separazione dei poteri e tutte le cose che abbiamo sedimentato e studiato, ma qui dobbiamo avere della realpolitik, perché la politica internazionale la si fa con la realpolitik. E allora a Battista voglio dire che poi alla fine Churchill e Roosevelt e De Gaulle si allearono con Stalin per sconfiggere i nazisti, questo è un dato storico. L'altro dato però, veniamo poi alle risposte, diciamo, del pubblico che ci ascolta, perché la gente poi alla fine e per Putin, perché lo avverte più vicino anche da un punto di vista culturale. I russi ormai sono quelli che girano, quelli che vengono in vacanza a Rimini, a Riccione, non vengono solo i russi ricchi e un po' cafoni che conosciamo in Sardegna. Poi scusami, San Giuliano, tu devi saperlo anche, diciamo, come conoscenza territoriale. Le russe sono quelle che hanno stravolto completamente il senso dell'amore, della passione, del sentirsi giovani in una tonnellata di province italiane. La calata delle russe nelle nostre province hanno completamente sradicato alcune tradizionali certezze rispetto al fatto che la moglie coi baffi e con la cellulite la devi tenere per tutta la vita. Ma tu sposeresti una russa o una turca? No, io non sposerei più nessuno, ho già sposato una volta e mi segna abbastanza per tutta la vita, quindi riprendo un'altra moglie sarebbe un errore, mi tengo quella che mi sono tenuto dall'inizio. Però potendo scegliere come compagna di avventura, forse una turca mi farebbe più curiosità, devo dire la sincera verità. No, io preferirei una russa, ma comunque al di là di questi nostri divertissement, il problema, ripeto, la Russia oggi è percepita culturalmente... La turca fa cose turche, però scusami se mi permetto. Questo probabilmente potrebbe anche essere così, però volevo dire, da un punto di vista culturale, la Russia è percepita più vicina agli italiani di quanto lo siano. Del resto poi anche la Turchia non è più quella degli anni 70, cioè la Turchia, diciamo, di Atatürk che guardava Occidente. Questo paese ha avuto un profondo processo di islamizzazione interno. Cioè, mi è capitato di trascorrere un weekend ad Istanbul prima dell'estate, e nei quartieri popolari la gente mette le bandiere dell'ISIS vicino alle finestre. Cioè, se lo facessero da noi dopo mezz'ora arriverebbero i carabinieri. Però ti rendi conto, San Giuliano, che invece fino a, non so, 4-5 anni fa gli italiani andavano in Turchia e dicevano: ma sembra di essere a Barcellona, l'Europa si sta muovendo lì. C'è questa illusione che lì ci fosse un fermento di arte, di cultura, architetti che si trasferivano, andavano tutti in Turchia, era un modello. Improvvisamente però è cambiato velocemente, è tornata quello che è mamma di turchi, quello che abbiamo sempre visto noi come lo spauracchio e l'attentato alla nostra civiltà. Sì, poi su questo sono d'accordo, tra l'altro lì la posizione è molto variegata, perché se si legge il recente voto politico si vede come poi sulla costa, su Istanbul, diciamo, prevalgano leggermente liberali, mentre ovviamente Erdogan è fortissimo nelle zone interne, nell'Anatolia, nelle regioni interne della Turchia. Ripeto, il problema però mi premeva sottolineare e replicare al mio amico Pierluigi Battista: qui siamo tutti per i valori occidentali, per la separazione dei valori, dei poteri, per, diciamo, quello a cui ci ha portato l'illuminismo, la rivoluzione francese, le rivoluzioni liberali del 1848, ma non è questo il tema in discussione. Il tema in discussione è quello delle alleanze politiche che vanno fatte guardando la realpolitik. Del resto la stessa Russia non si poteva pretendere che passasse repentinamente dall'autoritarismo zarista all'autoritarismo bolscevico comunista e poi dopo a una democrazia di tipo liberale. Ci vuole del tempo, probabilmente la generazione dopo quella di Putin sarà una generazione democratica come la intendiamo noi. Però è interessante questa deriva, forse per qualcuno scontata, ma non così facilmente prevedibile. Io sto ricevendo soltanto telefonate di persone che stanno con Putin, come Obama. Quando fu eletto Obama, mi ricordo, vidi delle signore uscire fuori dalle parrucchiere piangendo, il momento più bello della mia vita. E dove sono finite oggi? Ci fermiamo un istante. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, abbiamo posto una domanda: voi state con Putin o state con Obama? Domanda essenziale, basica, che può essere anche posta senza pretendere una risposta articolata. Questa è una risposta anche soltanto di pancia. Sto con Putin che mi fa paura l'ISIS e penso che è l'unico che abbia le palle per sconfiggere l'ISIS. Basterebbe anche questo. Però al di là di tutto devo registrare un dato. Il rapporto tra le persone che stanno con Obama e quelle che stanno con Putin è veramente sproporzionato. Per uno che dice sto con Obama, 9 stanno con Putin. Questo è il rapporto. Vediamo un po' se riusciamo a beccare uno sparuto. 6. Ennio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei con chi sta? Allora, io sto con Putin. Con Putin. Al di là che sono di estrema destra e quindi comunque il meno diciamo ipocrita in questo momento di Obama, sicuramente. Quindi lei mi conferma quello che ormai è un dato che è molto consolidato: la destra estrema, la destra moderata, vede in Putin comunque l'uomo forte che in realtà non era stato mai espresso, non dico dall'Occidente, ma nemmeno dall'Europa. Diciamo, se la destra aveva come punti di riferimento politici, che ne so, Fini, Berlusconi, dico a caso adesso quelli che mi vengono in mente, La Russa, Gaspari, vede Putin, dice improvvisamente: eccolo, è lui quello che cercavamo, è così? Non sono persone di destra quelle che ha nominato lei, quindi per cui voglio dire, io per quello io dico che la destra parlamentare, non so chi, lei qual è un suo punto di riferimento? Sì, certo, certo. Non so, quelli che sono stati votati agli italiani come di destra, non lo so. Lei qual è? Sì, mi dica un suo riferimento ideale, così capia. Beh, io diciamo che facevo parte del servizio d'ordine di Almirante, per cui ecco. Vabbè, però, non cioè, però Almirante è morto. Parla di adesso, lei diciamo, è uno di destra nostalgico, a punti di riferimento ideali che vivono in un empirio di eroi scomparsi, però non vede nessuno. Vabbè, però Putin diciamo riemerge. Giancarlo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Anch'io sto con Putin. Concordo con il vostro ascoltatore precedente, ritengo che Putin sia l'unico in questo momento che sia veramente legittimato ad intervenire, non solo perché ha le basi, ha una base da lungo tempo in zona che è la base di Tartus, e quindi probabilmente gli americani vorrebbero togliere la possibilità di avere una presenza mediterranea. Sì, adesso non entriamo in considerazioni diciamo di formazioni di squadre. Lei sta con Putin per un motivo molto semplice, lo trova più allineato con quella che in questo momento è una via giusta da perseguire. Chiaro. Giacomo. Sì, buongiorno. Lei con chi sta? Non sto con Putin. Con chi sta? Non sta nemmeno con Obama. Eh no, non faccia il prete, uno o l'altro, scusi. Oggi no, se no troppo faccia, no? Fa come, che ne so, come un Gentiloni qualsiasi. O con Putin o con Obama, con chi sta? Ma sa che c'è, che io sono convinto che ci sia una determinazione politica, perché il punto è stare con Putin o con Obama rispetto a quello che sta succedendo in Medio Oriente. Quindi rispetto all'attualità, non rispetto al passato o al futuro. Perfetto. Allora, rispetto all'attualità, io sono convinto che ci sia una determinazione politica italiana che però non viene presa per combattere l'ISIS, che non è né la posizione di Putin e non è nemmeno la posizione di Obama, in quanto, almeno non credo che ci siano prove, o forse per Obama sì, di finanziamento di queste forze terroristiche. Adesso entriamo in un discorso, non c'è dietrologia o complottismi. Lei deve dirmi, in questo momento, vista la situazione, se dovesse prendere una decisione, fosse lei a decidere o dovesse in qualche maniera convincere i suoi connazionali, stiamo dalla parte di qualcuno, anche se poi gioco forza staremo dalla parte che sarà costretti, in cui saremo costretti a stare, da che parte starebbe dei due? Se lei dice nessuno, vuol dire che sta con Obama, però in questo momento. In questo momento pare che sì, pare che potrei stare con Obama, ma non sarebbe proprio la scelta, cioè. Lo so, però come ha detto Pigi, è il male minore. Non è che io devo convincere, non sto in questo momento, sono come Iader Jacobelli alla tribuna politica, per me va bene tutto, basta che va bene. Così è così però con Obama. Stefano. Buongiorno. Sì. Salve, io sono un cittadino rumeno, sono qua in Italia da 15 anni e vi posso dire che stare con russi è stata la dramma più grande per il mio paese. Dunque la spiegazione che ve lo posso dare è quella: signori, non siete fortunati perché siete stati sotto gli americani, perché la vostra posizione geografica vi ha permesso di avere un piano Marshall dopo la guerra, perché non avete avuto dei parenti mandati in Gulag in Siberia da questi russi, che purtroppo c'è tanta gente qua che li amano. Vi dico, stare vicino ai russi è molto molto pericoloso, e l'unica cosa che noi impariamo della storia è quella che non impariamo niente. Ecco, guardate, il suo punto di vista in questo momento, visto che il nostro sondaggio, che è partito come uno scherzo, ma la sua telefonata ci fa riportare nella realtà. Gli italiani in questo momento stanno in maniera spassionata e potente, decisa. Se oggi facessero un sondaggio, penso che i risultati non sarebbero molto distanti. Conosco mai bene la composizione del mio pubblico. Cosa avrebbe da dire lei, a parte quello che ha detto, rispetto a questa onda emotiva? Come se la spiega lei? Perché gli italiani improvvisamente sono stati sempre e comunque di predilezione atlantica, in questo momento hanno così velocemente virato il loro giudizio. Secondo lei perché? Ma per me non tanto sono stato da verso l'America, gli italiani, perché purtroppo avendo vissuto tutto questo periodo in democrazia non riescono a fare la paragone con cosa vuol dire la dittatura, con cosa vuol dire il vero comunismo, e questa proprio posso dire che la spiegazione è che non sono vaccinati a questo tipo di regime che abbiamo vissuto noi, per esempio i paesi del blocco comunismo. Questa è la spiegazione, perché nel momento in quale noi come l'esempio della Romania, dei romeni, dobbiamo lasciare il nostro paese perché abbiamo vissuto 40 anni sotto il comunismo che ha portato la Romania come altri... Guarda, è chiarissimo, solo una battuta, Gennaro San Giuliano, la sigla ci sta portando via. Alla luce di questa ultima telefonata, te la senti di fare una battuta proprio di pochi secondi? Sì, proprio telegrafico. Qui ci sono due livelli, c'è il livello storico per il quale indubbiamente bisogna stare con gli americani, che sono sempre stati il faro della democrazia. Poi c'è il livello dell'attualità, dei fatti, della politica internazionale, che portano invece a stare con Putin, perché in questo momento Putin appare essere l'unica risposta possibile all'ISIS. Ti ringrazio Gennaro San Giuliano, grazie a quelli che hanno partecipato. Penso che i risultati di questo estemporaneo sondaggio saranno momento di riflessione importante anche per la politica nazionale. A domani.